Ora capisco perché su questa strada ho visto uomini piangere a dirotto. Non ho mai capito da dove venivano, ma sapevo benissimo dove andavano. Della poesia non me ne frega niente, li ho visti entrare nelle stanze e sono stati tutti torturati, uccisi come bestie, ammazzati. L'ultimo partigiano vagava per Milano davanti alla Madonnina del Duomo. Trovò un biglietto, oggi ci sposiamo. Rivide la sua vita in un baleno, i suoi fratelli uccisi, il ricordo del fieno. Per difendere la libertà di tutti lanciò una rosa sulle tombe dei suoi morti. Poco è cambiato, a cosa è servito? Almeno tu ricordami, amore, una secca pioggia cade fitta sul cuore ed ogni goccia è una spina di dolore. Sui pali dei telegrafi fucilavano gli impiccati per ucciderli due volte. Non fidarti mai di chi umilia la dignità, di chi compra uomini, di chi spaccia libertà. L'ultimo partigiano vagava per Milano davanti alla Madonnina del Duomo. Trovò un biglietto, oggi ci sposiamo. Rivide la sua vita in un baleno, i suoi fratelli uccisi, il ricordo del fieno. Per difendere la libertà di tutti lancia una rosa sulle tombe dei suoi morti. Avrei voluto un paese migliore, in sintonia con la pace del cuore. C'è tanta luce sotto questo sole, c'è ancora tanto, tanto da fare. Non c'è bisogno che ti dica altro, ho dato tutto quello che avevo per il mio paese, per il suo futuro. Tu fai tesoro di questo grano. L'ultimo partigiano vagava per Milano davanti alla Madonnina del Duomo. Trovò un biglietto, oggi ci sposiamo. Rivide la sua vita in un baleno, i suoi fratelli uccisi, il ricordo del fieno. Per difendere la libertà di tutti lancia una rosa sulle tombe dei suoi morti. L'ultimo partigiano vagava per Milano. Rivide la sua vita in un baleno, i suoi fratelli uccisi, il ricordo del fieno. Per difendere la libertà di tutti lancia una rosa sulle tombe dei suoi morti.